La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al 70° anniversario della conferenza di Wannsee. Il 20 gennaio 1942, 15 alti funzionari dei principali ministeri tedeschi si incontrarono in una residenza lungo un lago a Wannsee, nei pressi di Berlino, e misero a punto la soluzione finale, vale a dire lo sterminio degli ebrei anche al di fuori dei confini della Germania. Ospite ai nostri microfoni lo storico Gustavo Corni, docente di storia contemporanea all'Università di Trento. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Nel luglio del 1941 Hitler invita il numero 2 del Reich, Hermann Göring, a mettere a punto una direttiva con la quale si incarica Rainer Heydrich, capo dei servizi di sicurezza, di risolvere la questione ebraica nella sfera di influenza tedesca in Europa. Il 20 gennaio del 1942 Heydrich si incontra con altri 14 alti funzionari dei principali ministeri tedeschi in una residenza lungo un lago a Wannsee, nei pressi di Berlino. Sono trascorsi 70 anni da quell'incontro, con il quale il Reich decise la soluzione finale, vale a dire lo sterminio degli ebrei anche al di fuori dei confini della Germania. All'inizio della discussione, il generale Heydrich precisa che il problema da risolvere è l'eccessiva presenza di ebrei in Germania e nei territori occupati. La politica di emigrazione forzata perseguita dal Reich non è dunque più sufficiente a far fronte al problema ebraico. Si analizzano gli effetti di quella sorta di evacuazione degli ebrei dall'est, in sostanza l'eliminazione fisica o la pulizia etnica dallo spazio vitale tedesco, già messa in atto. Ora è necessario pianificare lo sterminio in modo più preciso. Nel corso della riunione si comincia a delineare l'operazione. Sono circa 11 milioni gli ebrei che saranno coinvolti nella soluzione finale. 5 milioni vivono in Unione Sovietica, circa 3 milioni sono gli ebrei già sotto il controllo dei tedeschi in Polonia e nei territori orientali occupati. A questo punto Heydrich afferma che occorre riesaminare le leggi di Norimberga e revocare le esenzioni che consentono a molti ebrei di rimanere tra i tedeschi. I poteri decisionali vengono attribuiti alle SS. Resta da risolvere una questione non da poco: individuare un sistema più veloce, per così dire, delle fucilazioni per l'uccisione e l'eliminazione dei corpi. Interviene il colonnello Otto Adolf Eichmann. L'utilizzo del gas avrebbe risolto il problema. Nein, ich sagte schon, es beruht auf Beiderseitigkeit. Und ich nahm hier dauernd Bezug auf die selbst im Judentum vorhandenen Bestrebungen und Wünsche. Nel campo polacco dell'Alta Slesia polacca, ad Auschwitz, spiega Eichmann, è possibile eliminare fino a 60.000 ebrei al giorno attraverso delle speciali camere a gas camuffate da docce o camere di disinfestazione. Inoltre, con la costruzione di appositi forni crematori, si possono occultare i cadaveri, cremandoli. Lo sterminio degli ebrei, così come pianificato dalla conferenza del Wannsee, ha inizio nel marzo del 1942 in Polonia, nel campo di Chełmno, per poi estendersi a tutti gli altri campi dislocati nell'Europa occupata. La soluzione finale elaborata a Wannsee costerà la vita, come sappiamo, a circa 6 milioni di ebrei, ma si tratta di una stima approssimata per difetto. Del cosiddetto protocollo di Wannsee è sopravvissuta una sola trascrizione, scoperta nel 1947 dagli agenti segreti americani nel Ministero degli Esteri tedesco. Abbiamo in linea lo storico Gustavo Corni, che è docente di storia contemporanea all'Università di Trento ed è autore di numerosi saggi sulla Shoah. Ricordiamo anche i saggi contenuti nel voluminoso Storia della Shoah, pubblicato da UTET nel 2005. Professore, buonasera, grazie. Buonasera. Allora, lei è un grande esperto di questa vicenda tristissima della nostra storia contemporanea, eppure leggendo la trascrizione, il verbale del cosiddetto protocollo di Wannsee, E si ha un po' la percezione, come dire, che la questione ebraica, l'eliminazione di milioni di ebrei, fosse vissuta dai gerarchi nazisti quasi come un adempimento burocratico, come dire, da evadere al più presto. Nella più grande naturalezza si parlava di milioni di esseri umani da mandare a morire. Non ha avuto anche lei da storico questa impressione? Sì, sicuramente le autorità statali e di polizia, in particolare le SS della Germania Nazionalsocialista, hanno ammantato, come ben noto, tutte queste vicende con un linguaggio freddo e burocratico, molto asettico, che serviva a molti scopi, io credo. In primo luogo serviva a nascondere, a travisare nei confronti del mondo esterno o anche nei confronti dei posteri ciò che si intendeva effettivamente realizzare. E poi io penso che servisse anche come un elemento di tranquillizzazione psicologica. In fondo l'uso di tutte queste metafore, di questi linguaggi asettici e burocratici, in qualche modo rassicurava i funzionari ai diversi livelli, che stavano semplicemente compiendo una normale operazione, diciamo, di tipo politico-amministrativo. Ci fu un qualche dibattito durante la conferenza, oppure tutte le decisioni vennero assunte in modo normale, piano, senza particolare discussione? Ma dagli elementi che noi abbiamo, che sono in primo luogo il verbale e poi tutta una serie di documenti collaterali che riguardano le singole istituzioni, le singole autorità che avevano inviato i loro rappresentanti a Berlino il 20 di gennaio, da tutta questa documentazione emerge che vi era una sostanziale accettazione del punto di vista e dell'obiettivo, che era quello di eliminare completamente tutta la popolazione ebraica da tutta l'Europa, sottolineo da tutta l'Europa, non solo dall'Europa che i tedeschi avevano fino a quel momento conquistato o che stavano conquistando, ma anche da paesi come la Gran Bretagna, che erano ancora ben lungi da essere conquistati. Il progetto era generale e su questo progetto c'era una sostanziale unanimità. E infatti, professore, dalla trascrizione si apprende che i calcoli, peraltro molto dettagliati, sulla presenza degli ebrei nei singoli paesi europei portavano alla cifra di 11 milioni di ebrei da eliminare. Poi, come noi sappiamo, da stime forse un po' approssimative successive si arrivò a 6 milioni. Anche questa scientificità fa paura. Sì, la scientificità è un presupposto fondamentale delle politiche criminali della Germania hitleriana, riguarda gli ebrei, ma riguarda anche tutta una serie di altri aspetti, gli spostamenti di popolazioni, il trattamento imposto alle popolazioni nei territori occupati. A monte, diciamo, di queste politiche vi era tutto un know-how, tutta una visione scientifica che era stata fornita da sociologi, economisti, statistici, politologi, che avevano affrontato anche negli anni precedenti in tutti i vari aspetti queste vicende e che le avevano studiate approfonditamente in maniera da fornire, come dire, elementi assolutamente certi dal punto di vista scientifico. D'altra parte, la prassi poi concreta dello sterminio invece è molto casuale, segue elementi accidentali, casuali, è molto spesso accompagnata da contraddizioni, da divergenze, cioè c'è questa forte contraddizione tra un progetto da una parte e poi la pratica concreta dell'eliminazione, che invece segue molto spesso strade tortuose e casuali. Ecco, ora entriamo un po' più nel vivo delle decisioni che vennero assunte. Quale fu nel dettaglio il ruolo di Eichmann, lo specialista, come venne definito in un famoso documentario del 61, nel quale appunto si dava conto del processo in Israele che poi si concluse con la condanna a morte? Eichmann era dal 1937 il responsabile di un ufficio presso il comando generale della Sicherheitsdienst presieduto da Heydrich, e questo ufficio si doveva occupare della cosiddetta arianizzazione, cioè si doveva occupare di espropriare le famiglie ebraiche, e che un progetto che venne realizzato per la prima volta a partire dalla primavera del 1938 a Vienna dopo l'Anschluss dell'Austria. E poi era in questo ruolo, diciamo, logistico, in questa funzione logistica, Eichmann era uno dei principali collaboratori di Heydrich. Come tale gli viene affidato il delicato compito di stilare il protocollo, che è il documento principale che noi abbiamo della conferenza, ma Eichmann si mantenne sempre nel ruolo dell'organizzatore che stava dietro le quinte, di colui che si occupava, diremo oggi, della logistica, e in qualche modo a buon diritto, in occasione del processo che si svolse in Israele nei primi anni 60, egli affermò di non aver mai toccato con una mano un ebreo. Insomma, si poteva massacrare milioni di ebrei anche senza averne mai sfiorato con un gesto di violenza uno solo. Sì, e questo è un altro aspetto molto inquietante di quel che avvenne in quegli anni. Quale fu il ruolo del numero due del Reich, cioè di Göring? Questo è un aspetto più controverso, sul quale in realtà non sappiamo molto. È molto a Göring venne affidato da Hitler, diciamo, una sorta di ruolo di plenipotenziario, di pieni poteri per risolvere la questione ebraica, come veniva chiamato, e Göring a sua volta affidò la effettiva esecuzione di questo compito a Heydrich. Però Göring si mantenne sempre distaccato da questa vicenda. Dopo aver affidato a Heydrich i pieni poteri, Göring non se ne occupò più. Anzi, bisogna ricordare che Göring più volte, prima e dopo, intervenne per aiutare degli ebrei che gli erano amici, per cercare di salvarli, di evitare loro il destino peggiore. Cioè, Göring non era certamente un radicale antisemita, Göring però era il numero due del Reich. Noi non sappiamo esattamente perché Hitler affidò proprio a lui questa sorta di incarico plenipotenziario, anziché affidarla direttamente a Heydrich o a Himmler, come avrebbe potuto, ma la struttura di potere del regime nazionalsocialista era molto complessa, era molto intricata, c'erano lotte di potere, c'erano tensioni, attriti, per cui insomma non dobbiamo pensare che la dittatura fosse in realtà una struttura in cui tutto funzionava dall'alto verso il basso con una linea gerarchica precisa. Un'ultima domanda, professore. Veniamo a un altro aspetto abbastanza controverso dal punto di vista storico. Gli altri paesi, a partire dagli alleati e dunque dall'Italia, sapevano di questa decisione assunta dal Reich della soluzione finale? Una risposta generale è difficile da dare, sì. Ci sono situazioni diverse. Nel caso della Slovacchia, per esempio, le autorità del governo collaborazionista slovacco erano informate e collaborarono pienamente. Nel caso dell'Italia questa informazione probabilmente, la documentazione a mia conoscenza non è chiara, questa informazione era molto lacunosa a livello centrale. Però vorrei anche ricordare che lo sterminio degli ebrei era già iniziato molto prima, certo, della conferenza di Wannsee, cioè centinaia di migliaia di ebrei sovietici erano stati già massacrati quando nel gennaio del 42 i gerarchi si riunirono sulle sponde del lago Wannsee a Berlino. Per quanto riguarda l'Italia, io non credo che il governo italiano fosse pienamente informato in via ufficiale, in via ufficiose e per altri forum, insomma, indirette. Certamente c'erano informazioni piuttosto precise che provenivano anche dal corpo diplomatico italiano in merito al trattamento che veniva imposto agli ebrei nei territori occupati, ma una precisa informazione a livello ufficiale io non credo che ci fosse. Professore, molte grazie e buona serata. Prego, buonasera.